I numeri innanzitutto: sono oltre 57.000 i positivi, 9.300 le persone guarite, 7.500 i morti, ma per il quarto giorno consecutivo rallenta l'aumento dei nuovi positivi. Sono stati 3.500 ieri. Un buon segnale, anche se la guardia ovviamente non va abbassata. A dominare il resto della scena sono le questioni economiche, a partire dal vertice europeo di oggi, nel quale si discuterà di euro bond. 8 paesi li vogliono, ci sono anche la Francia, la Spagna oltre a noi, non la Germania. Mentre l'ex presidente della Banca Centrale Europea, Draghi, interviene sul Financial Times. Ci vogliono aumenti del debito pubblico per sostenere le imprese, dice tra l'altro. E poi il decreto, con i nuovi dettagli su chi deve rimanere aperto e chi chiuso. A casa 1.400.000 lavoratori. Si espande il contagio negli Stati Uniti, con 70.000 persone che hanno contratto il virus e oltre 1.000 morti. Il Senato ha intanto dato il via libera al maxipiano di aiuti. Curiosamente, nel frattempo, il calcio discute e litiga su se e quando deve riprendere il campionato. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori. Buongiorno, bentornati. Sono le 6 e 31 minuti di questo giovedì 26 marzo. Questo è 24 Mattino. Iniziamo come ogni giorno con Bob Marley, che non è una professione di ottimismo casuale, ma è un tentativo di farci coraggio, come diciamo tutte le mattine. Questo Bob Marley che ci dice che tutto andrà bene a un certo punto, ogni singola cosa si metterà a posto, con fatica, con l'impegno di tutti noi naturalmente, col dolore che si sta vivendo soprattutto tra Bergamo e Brescia in queste ore, ma sparso in alcuni punti d'Italia. E però, ragazzi, ne usciremo, 349-238-6666 è il numero, in questo periodo ve lo dico, soprattutto per i vostri audio su WhatsApp. 349-238-6666, fatemi sentire la vostra voce, raccontatemi quello che fate, se siete al lavoro, se ci state andando, se ci dovete andare, se temete per il vostro lavoro. Come state in queste lunghe giornate a casa, con figli, senza figli, da soli? Come ve la passate? Un modo anche per starsi vicini, Siamo sempre in diretta sulla pagina Facebook di 24 Mattino, ci trovate anche là, e anche là potete commentare, potete scrivere, potete mandare un po' di mail se volete a 24mattino@radio24.it. Ne ho lasciate indietro un po', ci avete scritti in tanti, ma non vi preoccupate, arrivo, E sono io a rispondervi, quindi mandate, mandate. Dunque, la giornata dal punto di vista dei numeri, Peter Bescapè c'è in regia, Laura Vanossi in assistenza, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. La giornata è una giornata, come si diceva, che dà qualche segnale positivo dal punto di vista dei numeri, lo abbiamo detto, guardia che comunque non va abbassata, evidentemente queste misure di contenimento stanno funzionando pur con tutta una serie di dubbi che hanno sollevato. Ieri il presidente del Consiglio Conte è intervenuto alla Camera dei Deputati e ha detto: siamo all'altezza di questa sfida. Siamo all'altezza del compito che il destino ci ha riservato? La storia domani ci giudicherà. Verrà il tempo dei bilanci, delle valutazioni su quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto. Tutti avranno la possibilità di sindacare, frigido pagatocque animo il lavoro svolto e trarne le conseguenze. Un governo che, dice Conte, ha agito con rapidità. Il governo ha agito con la massima determinazione, con assoluta speditezza, approntando ben prima di qualunque altro paese le misure di massima precauzione. A partire dal 22 gennaio, ben prima che il 30 gennaio l'Organizzazione Mondiale della Sanità decretasse e dichiarasse il coronavirus emergenza internazionale di salute pubblica. Sarà e arriverà il momento di chiedersi cosa si è fatto da quel momento, insomma dalla fine di gennaio, dal momento nel quale è stata proclamata l'emergenza, al momento nel quale è stato scoperto il cosiddetto paziente 1. Arriverà il momento, perché su questo bisognerà ragionare e qualche quotidiano oggi inizia a farlo. Bergamo si diceva, andremo a Bergamo tra un attimo, e però intanto voglio farvi sentire questa voce del sindaco Giorgio Gori, sentiamolo sui morti, sentiamo. Dal 1 di gennaio al 19 di marzo, sono quindi dati aggiornati a qualche giorno fa, mediamente negli ultimi anni erano decedute in città Bergamo 628 persone. Quest'anno ne sono decedute 1128, significa che ci sono 500 morti in più nel 2020, a fronte del fatto che soltanto 48 fino ad oggi sono stati, fino al 19 di marzo, anzi per la precisione, sono stati riconosciuti come decessi causati di coronavirus. Quindi 500 morti in più, di questi ufficialmente solo 48 per coronavirus. Ci sono tutte le persone a Bergamo e dintorni a casa con la polmonite. Ho raccolto delle stime da parte dell'Ordine dei Medici che danno circa 4.000 persone con polmonite in corso in questo momento nella provincia di Bergamo. Dove sono? Sono nelle loro abitazioni, sono nelle case di riposo e sono assistiti in modo molto precario. Due giorni fa la regione ha istituito queste unità di soccorso speciali per la continuità assistenziale, si chiamano USCA, è una risposta secondo me adeguata teoricamente, ma sono 8 quelle per il momento definite per la provincia di Bergamo, a fronte di qualche migliaio di persone che avrebbe bisogno di cure a casa. E poi ci sono i bergamaschi nelle istituzioni, per esempio Daniele Belotti della Lega, che in aula parla alla Camera durante l'intervento di Conte, insomma nella discussione dopo l'intervento di Conte, e si emoziona. Ci permetta solo di ringraziare di cuore chi non si ferma mai, perché i bergamaschi non sono abituati a restare con le mani in mano. In questo momento centinaia di volontari alpini, idraulici, elettricisti, imbianchini, i ragazzi della curva nord dell'Atalanta stanno allestendo un ospedale da campo nella fiera di Bergamo. Aziende, associazioni, semplici cittadini stanno donando milioni di euro agli ospedali bergamaschi. La protezione civile dei comuni non si ferma un attimo, i sindaci e i consiglieri sono tutti in prima fila. Grazie di cuore, grazie davvero a tutti, perché noi non ci fermeremo mai. Grazie. E anche Cristian Invernizzi, sempre della Lega, da Treviglio. Ricordando che oggi su 600 medici di famiglia, 144 a Bergamo sono malati. Non abbiamo statistiche su quanti anestesisti, su quanti infermieri, su quanti operatori sanitari siano malati, ma a loro veramente di cuore, da parte di coloro che hanno perso i loro cari, sapendo che un ultimo sguardo benevolo comunque c'è stato. Cioè, di questi operatori che in alcuni casi, come nel caso dell'ospedale di Treviglio, si sono fatti istruire dalla curia su come dare l'estrema unzione. Grazie di cuore per quello che avete fatto. Oggi piangiamo e ci sarà tempo e modo, questo lo garantiamo ai cari e ai nostri defunti, ci sarà tempo e modo di chiarire cosa è successo. E andremo tra un attimo a Bergamo, ma prima andiamo nel Lazio e andiamo in provincia di Latina, a Fondi. Lo abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, Fondi che è diventata una zona rossa. Si è deciso di chiudere tutto. Nessuno entra o esce dal paese, almeno teoricamente. Beniamino Maschietto è il vice sindaco ed è il sindaco facente funzioni, in sostanza. Maschietto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. In teoria, perché in realtà la gente, ha detto nelle scorse ore lei, entra e esce come vuole. E quando l'ho detto questo, scusi? La vedo dal Messaggero, dalle pagine del Messaggero. Ma io non l'ho mai detto questo, non, assolutamente no. Devo dire che ci sono 7 posti di blocco dove il controllo è molto severo. Io non ho mai affermato questo, assolutamente no. Lo nego assolutamente. Quindi la situazione è bloccata, in sostanza, no? La gente non entra e non esce, a differenza di quello che abbiamo letto, per carità, io ci cito, cito il titolo del Messaggero. Non sono certamente mie affermazioni queste, nel modo più assoluto. Benissimo. Senta una cosa, meglio così, no? Perché sennò sarebbe stato preoccupante. Ci dà un quadro della situazione? Ma guardi, a fronte dei primi giorni dove c'erano casi nuovi ogni giorno, negli ultimi 4-5 giorni c'è stato senz'altro un trend negativo e questo ci fa ben sperare nei prossimi giorni. Tutto è dovuto a un primo caso durante le feste di Natale, di Carnevale, quando un piccolo gruppo di anziani festeggiava socializzando insieme e in mezzo a loro c'era una persona venuta dal nord, inavvertitamente, inconsciamente, era una portatrice sana e quindi c'è stato questo contagio in mezzo a questo gruppo iniziale di anziani. La nostra fortuna, nella sfortuna, è che quel gruppo di anziani è stato sempre più attenzionato, controllato, e quindi i risultati degli ultimi giorni sono dovuti proprio a questa ricerca di screening intorno al gruppo iniziale. Devo dire che da parte di tutte le istituzioni, dalla ASL, dalla prefettura, a noi stessi, c'è stata una continua ricerca anche attraverso uno screening più allargato e i risultati si vedono in questi giorni. Li state iniziando a vedere. Avete una qualche idea di quando possa finire questo isolamento? Guardi, noi rispettiamo la data del 5 aprile, come spero tutti gli italiani. Devo dire che le attenzioni sono state rivolte soprattutto nei confronti dei familiari e di quel gruppo iniziale. Casi sporadici sono stati negli ultimi giorni, ma con l'esperienza anche degli altri comuni, soprattutto dei comuni del nord, abbiamo avuto la possibilità di mettere in campo molte più forze, molte più energie per cercare di tamponare sempre tutto. Senta una cosa, e dal lato invece c'è stato, insomma, un po' di preoccupazione a un certo punto, Maschietto, perché come sappiamo a fondi, no, c'è mercato agroalimentare tra i più importanti d'Italia, sostanzialmente forse il più importante del centro-sud. Da quel punto di vista le cose sono tranquille, perché qua c'è anche un tema di approvvigionamenti. Sì, è uno dei più grandi mercati in Europa e senz'altro è stato rivolto nei confronti di questa struttura un'attenzione particolare. Da tempo sono funzionanti i termoscanner che permettono di rilevare la temperatura anche presto, sensibile, quando si supera i 37,5. Tutti coloro che entrano ed escono vengono attenzionati in questo senso, quindi se c'è qualche rilevazione di temperatura elevata vengono subito attenzionati, vengono studiati e con il test sulla saliva e anche negli ultimi giorni con le TAC polmonari, che permette di fare una diagnosi in tempi rapidissimi. Negli ultimi giorni abbiamo fatto una 60 di TAC, sono stati attenzionati circa 200-300 persone e casi positivi sono stati rilevati, come dicevo prima, sempre di meno, mentre i primi giorni viaggiavamo su 5-6 al giorno, negli ultimi giorni 1-2, questo è un indice molto importante. Positivo, importante, sì. Allora la ringrazio e perdoni per l'incomprensione iniziale, Maschietto, io lo ripeto. Mi permetta, se mi rubo altri 30 secondi. Sì, prego. Nei giorni scorsi è stato detto 1000 contagi, la frutta del MOF non è igienicamente pura, tutte 1000 contagi. Non l'abbiamo mai detto, mai pensato, non so come escano queste notizie, sì. Quindi voglio ancora affermare con forza che tutto ciò che fuoriesce dal MOF è igienicamente, tossicologicamente puro, quindi ecco l'invito ad avere fiducia nelle istituzioni e se si dice che la frutta e la verdura del MOF è sana, ci si deve credere e bisogna anche invitare tutta la popolazione italiana a farne largo consumo e uso, specialmente in questi giorni. Certo. La ringrazio, grazie Beniamino Maschietto, vice sindaco di Fondi, per essere stato con noi. Adesso andiamo nell'epicentro della crisi. Voglio chiarire all'ascoltatore che dice che parla di un tentativo di sciacallaggio mediatico. Ragazzi, io prendo qua quello che leggo su un giornale e chiedo al sindaco, al vice sindaco, anzi il facente funzioni, e lui mi ha dato la risposta che mi doveva dare. Ernesto De Amici, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei. E siamo appunto, come si diceva, nell'epicentro della crisi. Le chiedo di aspettare ancora un attimo, abbiamo il traffico e poi per quanto conti in questi giorni naturalmente, poi veniamo da lei. Perché noi tra l'altro a volte tendiamo a dimenticarci di persone che sono in prima linea, come lo sono i farmacisti, appunto, specie in una situazione difficile come quella bergamasca. Come vanno le cose, De Amici? È difficile immaginare che possano andare peggio. Sul territorio la situazione è tragica, perché il territorio è stato dimenticato completamente. Non c'è un progetto, o meglio, non si percepisce che esista un progetto di assistenza ai positivi, a quelli in quarantena, o anche solo semplicemente ai potenziali a rischio sul territorio. Le faccio solo un esempio. Prego. A noi i dispositivi di protezione individuale non ne sono arrivati, abbiamo dovuto cavarcela fino a che abbiamo potuto con le nostre forze, ma attualmente qualsiasi tipo di fornitura arrivi in dogana viene requisita, per cui non abbiamo più niente da poter offrire ai cittadini che vengono a cercare le famigerate mascherine. Non ne abbiamo. Siamo riusciti a salvare qualche cosa per i nostri dipendenti, ci siamo messi in sicurezza noi, i nostri dipendenti, ma tutto è stato gestito a livello nostro. Nessuno delle istituzioni ci ha fatto di protezione civile piuttosto che di chiunque altro, ci ha fatto avere un protocollo. L'unica cosa che ci hanno detto installati i termoscan. Sì, dovremmo prendere i termoscan, che costano 8-10 mila euro l'uno. Tra l'altro anche il numero dei contagiati tra i farmacisti è elevato, De Amici. È altissimo proprio perché questo protocollo non ha mai visto la luce, per cui gli allarmi sono stati, hanno circolato fuori di noi e per precauzione, senza un'indicazione da parte delle autorità sanitarie, per precauzione abbiamo cominciato a metterci sulla difensiva. Oramai poi erano scappati dalla stalla. Oltretutto, lei tenga presente una cosa, giusto perché è una confidenza che mi ha fatto una confessione disperata di un carabiniere. Quelli che sono in quarantena non sono segnalati da nessuna parte. Per cui in paese sappiamo chi sono e quando li vedo passare sono litigate fuori bonde. Ma i carabinieri perché li vede passare, perché escono, ci sono questi stanno facendo la quarantena e che escono. Certo, che escono, ma tanto riesco un momento per andare a comprare il pane. Io non lo so, davvero. Ma tanto riesco per fare una la passeggiata al cane, tanto non incontro nessuno, non parlo con nessuno. E la legge sulla privacy impedisce ai carabinieri di sapere chi sono. Quindi io dovrei telefonare ai carabinieri e denunciare il mio vicino perché è uscito. E allora diventa una cosa penale. A lei sembra un paese civile questo? No. Per come funziona, no. Diciamo che in questo momento si sta valutando, a parte che a me non sembra civile il fatto che uno che è in quarantena decida di uscire di casa, insomma, perché sapendo com'è la situazione, sapendo com'è a Bergamo. Devo dire, dall'altra parte si sta studiando, oggi dovrebbero arrivare a conclusione lo studio, insomma, la chiamata del governo alle aziende per avere questa app che finalmente tracci quantomeno le persone che sono in quarantena, quantomeno i positivi che appunto non devono uscire. Che cosa chiedete di amici al governo e alla regione anche? Chiediamo di sapere come ci dobbiamo comportare. Le faccio un esempio: i medici di base non hanno un protocollo di intervento sui pazienti che non vengono ricoverati negli ospedali. Laddove esiste il sospetto di una positività e non c'è la possibilità del ricovero, non hanno un protocollo da seguire, dei farmaci da prescrivere, delle indicazioni da dare, perché non gli è stato dato. E ognuno di loro va a buon senso e a scienza e coscienza. Forse è un po' poco in questa situazione. Questi colleghi medici sono stati lasciati abbandonati da soli di fronte ad una situazione che è enorme. Noi quantomeno abbiamo un'associazione, che un sindacato e un ordine che ci aiuta, ci tiene vicini, noi sentiamo di cotte e di crude, ma va bene. In qualche modo comunque ci manteniamo in collegamento con i nostri colleghi. Non abbiamo il polso della situazione di quanti siano malati. Per certo so che ce ne sono 4 ricoverati in ospedale intubati. Per certo so che ci sono 5 farmacie che sono state chiuse perché positivi i farmacisti che ci lavoravano e quindi in quarantena tutta la struttura. Per certo so che ci sono almeno una trentina di colleghi che sono a casa in quarantena volontaria, non sono stati testati, non abbiamo fatto ai farmacisti, se non vengono ricoverati non fanno il test. Allora la ringrazio, no, grazie per averci dato questa testimonianza De Amici, a sottolineare un altro problema che andrà risolto. Ernesto De Amici, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Bergamo. Andrei a fare un giro rapido nelle altre regioni. Innanzitutto il Piemonte, in un giorno 80 morti, ieri i decessi sono cresciuti del 20%, anche qua però si registra una frenata del contagio. E poi c'è tutto il tema del Sud, c'è stata una lettera durissima al governo da Vincenzo De Luca, il presidente della regione Campania. E tra gli altri parla Franco Faella, ve lo ricorderete, infettivologo, quello che era in pensione, che adesso sta gestendo l'espansione dell'ospedale Loreto Mare di Napoli. Lo abbiamo avuto ospite qua, oggi reggiamo, dice, ma se arriva lo tsunami, no. Guardi, per ora noi siamo sicuramente in grado di gestirla. È chiaro che l'entità dello tsunami è quello che ci può far tremare, che ci può mettere KO. Adesso noi speriamo che le cose continuino senza una montata importante, tutta acuta, con un numero di pazienti improvvisi e numerosi. Allora in quelle condizioni noi avremo veramente difficoltà. Ma se il numero dei pazienti che quotidianamente arrivano alla nostra osservazione è un numero, diciamo, accettabile, anche progressivo, noi riusciamo a gestire la cosa. E chi è stato evidentemente investito dallo tsunami è la Spagna, senza ombra di dubbio. E siamo in linea con Barcellona, con Luca Chirichiello, che è un anestesista e rianimatore, da 13 anni vive e lavora là, e la ringrazio per averci concesso il suo tempo, perché immagino che siano ore convulse anche da quelle parti. Buongiorno Chirichiello, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, la parte, le ore più dure le sta vivendo senza dubbio Madrid, e questo è chiaro, lo abbiamo visto dai numeri. Come stanno andando le cose, e come stanno andando le cose anche a Barcellona? Beh, come detto, sì, Madrid è stato il centro più colpito, e la situazione sta raggiungendo delle dimensioni catastrofiche. Parlano appunto di medicina di guerra, stanno allestendo nuovi ospedali in strutture improvvisate, alberghi, e ieri hanno avuto il picco più alto, no, forse il picco più alto ancora non è arrivato, però ci sono stati 3.000 morti più o meno, e sono stati più numerosi rispetto alla Cina e all'Italia nel 90° giorno, quindi ieri hanno avuto proprio la sensazione del dramma. Hanno sottovalutato le autorità spagnole, Chirichiello, a suo giudizio? Ma io credo un po' come tutte le autorità europee, in realtà. Adesso in queste ore sono molto criticate, criticate anche dagli italiani che vivono qui, perché ovviamente avevano il polso della situazione già una settimana prima. Per esempio hanno molto criticato la manifestazione dell'8 di marzo che c'è stata in tutta la Spagna, con un'affluenza enorme di persone, e hanno permesso appunto il normale svolgimento. E forse sì, però credo che nessuna delle autorità europee fosse in grado di prevedere davvero ed essere in grado di attuare rapidamente. Sì, forse mettiamola così, avendo già l'esempio dell'Italia, qualcosa di più si poteva fare, vale un po' per tutti, vale per la Spagna, vale per la Francia, vale per la Gran Bretagna, insomma non cambia molto il discorso. In realtà anche l'Italia stessa, se vuole. Sì. Sì, però diciamo noi siamo partiti prima, ecco, per così dire, quindi un'idea forse ce la si poteva fare. Come si diceva, Barcellona più tranquilla la situazione? Ma come numeri rispetto a Madrid forse sì, però in realtà i catalani sono stati i primi a reagire in maniera più radicale, attuando credo lo stato di allarme il sabato rispetto al resto della Spagna, che è domenica, quindi... da questo punto di vista ancora una volta i catalani sono capaci di agire in maniera diversa, e ieri per esempio sotto casa mia qui, che è la Gran Via, una strada di 5 corsie, c'era uno dei posti di blocco più grandi che ricordo ultimamente. Proprio ieri hanno chiuso molto le misure di trasporto, di trasferimento per la città. Non direi che è tranquilla, anzi si vivono ore abbastanza in stato di angoscia, la città è vuota in maniera surreale come tutte le città d'Europa. Sì. E però per Barcellona colpisce particolarmente. La ringrazio, Luca Chirichiello, anestesista, rianimatore, da 13 anni vive e lavora a Barcellona. Andiamo a chiudere, va, con una voce che se volete ci fa sorridere. Cateno De Luca, il sindaco di Messina, che dice: mando in giro i droni con la mia voce. Vedo l'ora già di averle così, e poi gli schermi che controllo tutti i villaggi. Non vedo l'ora. Droni ovunque, ovunque. Con la mia voce, come di becca, vi dirà: che cazzo, dove cazzo vai? Torna a casa. Vabbè, chiudiamo col nostro inno, con Bob Marley. Veniamo anche alla parte economica, naturalmente. Il vertice europeo di oggi, le decisioni del governo, cosa dice l'ex presidente della BCE Draghi. All'interno della rassegna stampa, dove non ci sarà solamente questo, ovvio. GR, a dopo.